Il pranzo di Babette di Karen Blixen. Capitolo primo. Due signore di Berlevaghe. In Norvegia c'è un fiordo, un braccio di mare lungo e stretto chiuso tra alte montagne, che si chiama Berlevagfjord. Ai piedi di quelle montagne il paese di Berlevaghe sembra un paese in miniatura, composto da casine di legno, tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. 65 anni fa, in una delle casine gialle, vivevano due anziane signore. A quell'epoca altre signore portavano il busto, le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia perché erano alte e flessuose, ma non avevano mai posseduto un oggetto di moda e per tutta la vita si erano vestite dimessamente di grigio o di nero. Erano state battezzate col nome di Martina e di Filippa in onore di Lutero e del suo amico Melantone. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta o di un pio partito ecclesiastico noto e riverito in tutta la nazione norvegese. I suoi accoliti rinunciavano ai piaceri di questo mondo, perché la terra e tutto quanto essa offriva era per loro soltanto una specie di illusione, e la vera realtà era la nuova Gerusalemme verso la quale essi aspiravano. Non facevano voti, ma comunicavano tra loro con un sì o un no no, e si chiamavano fratello e sorella. Il decano s'era sposato in tarda età e ormai era morto da un pezzo. I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o calvi o duri d'orecchio e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare, così che nella congregazione si erano avuti alcuni dolorosi casi di piccoli scismi, ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fino da bambine. Ai loro occhi esse erano ancora due sorelline, tanto amate attraverso il ricordo del loro caro genitore. Nella casa gialla sentivano la presenza dello spirito del maestro e si trovavano a loro agio e in pace. Le due signore avevano al loro servizio come tuttofare una francese, Babette. Strana cosa per due puritane in un paese della Norvegia, tanto strana da esigere perfino una spiegazione. Gli abitanti di Berlevaghe pensavano di averle trovata nella pietà e bontà d'animo delle due sorelle, perché le figlie del vecchio decano dedicavano il loro tempo e il loro piccolo reddito alle opere di beneficenza e non vera creatura addolorata o bisognosa che bussasse invano alla loro porta. E Babette era venuta a quella porta 12 anni prima, profuga e senza amici, quasi folle di dolore e di paura. Ma la vera ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere cercata in un tempo più remoto e in una zona segreta della coscienza. Capitolo 2. L'innamorato di Martina. Da ragazze Martina e Filippa erano state straordinariamente graziose. Avevano lo splendore quasi soprannaturale di un albero da frutto in pieno fiore o della neve eterna. Non erano mai state viste a balli e a feste, ma la gente si voltava quando esse passavano per la strada e i giovanotti di Berlevaghe andavano in chiesa per vederle risalire la navata. La sorella minore aveva anche una bellissima voce che la domenica colmava la chiesa di tenerezza. Per la congregazione del decano, l'amore terreno e il conseguente matrimonio erano argomenti futili, in se stessi mere illusioni, ma pure è possibile che più d'uno dei fratelli anziani abbia apprezzato le ragazze assai più dei rubini e ne abbia fatto parola al padre. Ma il decano aveva dichiarato che per lui, nella sua vocazione, le figliole erano la mano destra e la mano sinistra. Chi avrebbe voluto privarlo di queste? E quelle belle ragazze erano state allevate nell'ideale d'un amore celeste e ne erano tanto prese che non si erano lasciate toccare dalle fiamme del mondo. Tuttavia, esse avevano sconvolto la pace del cuore di due gentiluomini del gran mondo fuori di Berlevaghe. C'era un ufficiale giovane chiamato Lorenz Löwenheim, che nella città della sua guarnigione aveva condotto vita allegra e si era indebitato. Nel 1854, quando Martina aveva 18 anni e Filippa 17, il padre, adirato, lo aveva mandato ospite per un mese presso una zia in una vecchia casa di campagna a Fossum, presso Berlevag, perché avesse il tempo di meditare e di ritrovare la retta via. Un giorno venne a cavallo in paese e incontrò Martina sulla piazza del mercato. Egli guardò giù alla bella ragazza ed ella guardò su al bel cavaliere. Quando ella lo ebbe superato e fu scomparsa, egli non sapeva se credere agli occhi suoi. Nella famiglia Löwenhielm si tramandava la leggenda di un gentiluomo di quella casa che aveva sposato una Huldre, spiritello femminile delle montagne norvegesi, così biondo che l'aria attorno ne brillava tremula. Da allora, ogni tanto, accadeva che un membro della famiglia avesse visioni surreali. Fino ad allora, il giovane Lawrence non si era mai reso conto d'avere per natura un particolare dono spirituale. Ma ora sorgeva davanti ai suoi occhi l'improvvisa e potente visione di una vita più alta e più pura, senza creditori, senza scadenze e senza prediche paterne, senza rimorsi di coscienza segreti e spiacevoli, e con un amabile angelo dai capelli d'oro che lo guidava e lo premiava. Grazie alla sua devotazia, ottenne d'essere ammesso in casa del decano e vide che Martina era anche più bella quando teneva il capo scoperto. Seguiva quell'esile figuretta con occhi adoranti, ma odiava e disprezzava la figura che gli stesso faceva quando le stava vicino. Era esterrefatto, estordito, perché non gli riusciva di trovare qualcosa da dire o una qualsiasi altra ispirazione nel bicchier d'acqua che gli stava davanti. Cari fratelli, la misericordia e la verità si sono incontrate, diceva il decano. La rettitudine e la felicità si sono baciate. E i pensieri del giovane erano rivolti al momento in cui egli e Martina si sarebbero baciati. Egli ripeteva ogni tanto quella visita e ogni volta gli pareva di essere più piccolo e più insignificante e spregevole. Quando alla sera tornava a casa di sua zia, gettava negli angoli della sua stanza con un calcio i lucenti stivaloni da cavallerizzo e poi anche chinava il capo sulla tavola e piangeva. Il giorno della partenza tentò per l'ultima volta di comunicare a Martina i propri sentimenti. Finora gli era stato facile dire a una bella ragazza che egli l'amava, ma questa volta le tenere parole gli si incollavano alla gola ogni volta che fissava quel volto di fanciulla. Quando egli ebbe salutato la compagnia, Martina lo accompagnò alla porta con un candeliere in mano. La luce le brillava sulla bocca e proiettava verso l'alto l'ombra delle sue lunghe ciglia. Stava per andarsene in muta disperazione, ma sulla soglia di casa le afferrò all'improvviso una mano e se la premette contro le labbra. «Me ne vado per sempre!» le gridò. «Non ti rivedrò mai, mai più! Qui ho davvero imparato che il destino è duro e che in questo mondo esistono cose impossibili!» Tornato nella città della sua guarnigione, ripensò alla sua avventura e s'accorse che non gli piaceva affatto ripensarci. Mentre gli altri giovani ufficiali parlavano dei loro amori, egli taceva del suo perché, veduta dalla mensa degli ufficiali e per così dire coi loro occhi, sarebbe stata una storia pietosa. Come mai era potuto accadere che un tenente degli ussari si fosse fatto sconfiggere e umiliare da una setta di neofiti dal viso lungo nelle stanze spoglie della casa d'un vecchio decano? Allora si spaventò, fu preso dal panico. Era la pazzia di famiglia che gli faceva ancora portare dentro di sé l'immagine di un sogno, di una ragazza tanto bionda che l'aria attorno a lei brillava di purezza e santità? Non voleva essere un sognatore, voleva essere come i suoi compagni ufficiali. Allora si fece coraggio e, compiendo il maggior sforzo della sua vita, risolse di dimenticare ciò che gli era accaduto a Berlevag. Stabilì che da quel momento in poi avrebbe guardato avanti a sé, non indietro, si sarebbe dedicato tutto alla carriera e sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe fatto una figura brillante in un mondo brillante. Sua madre fu soddisfatta del risultato della sua visita a Fossum e e nelle lettere espresse molta riconoscenza alla zia. Non sapeva per quale strana e tortuosa strada suo figlio avesse raggiunto quel felice traguardo morale. Il giovane ufficiale, ambizioso, attirò assai presto l'attenzione dei suoi superiori e ottenne una promozione insolitamente rapida. Fu inviato in Francia e in Russia e al suo ritorno sposò una dama d'onore della regina Sofia. In quelle alte sfere egli si muoveva con grazia e disinvoltura, soddisfatto del suo prossimo e di se stesso. Col passare del tempo ebbe perfino occasione di trarre vantaggio dalle parole e dai modi di dire che gli erano rimasti impressi dai tempi della casa del decano, perché ora a corte era di moda la religione. Nella casa di Berlevag, Filippa portava talvolta il discorso sul giovanotto bello e silenzioso che era apparso così all'improvviso e che così all'improvviso era sparito. Allora la sorella maggiore le rispondeva con garbo, mostrando un volto fermo e sereno, e deviava poi subito il discorso verso altri argomenti. Capitolo 3. L'innamorato di Filippa. Un anno dopo arrivò a Berlevag una persona anche più importante del tenente Löwenhielm. Il grande cantante Achille Papin di Parigi aveva cantato per una settimana al Teatro Reale dell'Opera di Stoccolma, trascinando come ovunque il pubblico all'entusiasmo. Una sera, una dama di corte che sognava un'avventura sentimentale con quell'artista gli aveva descritto il grandioso e selvaggio paesaggio norvegese. La sua natura romantica ne era stata eccitata e perciò decise di tornare in Francia seguendo le coste della Norvegia. Si sentiva smarrito in quel sublime paesaggio, non avendo nessuno con cui parlare, finì con il cadere in una malinconia che gli fece vedere se stesso come un vecchio, alla fine della carriera, finché una domenica, non riuscendo a trovare altro da fare, andò in chiesa e udì cantare Filippa. Gli bastò un attimo per sapere e capire tutto. Tradotti nel loro proprio linguaggio musicale, recati a lui dalla voce di una giovane donna, aveva scoperto le cime nevose, i fiori selvatici e le bianche notti del nord. Come già Lorenz Löwenhielm ebbe una visione. Dio onnipotente, pensò, il tuo potere è sconfinato e la tua misericordia sale fino alle nuvole. Ecco una prima donna dell'opera che stenderebbe Parigi ai suoi piedi. A quell'epoca Achille Papin era un bell'uomo di 40 anni, coi capelli neri, ricciuti e la bocca rossa. L'essere diventato l'idolo del pubblico internazionale non l'aveva viziato, era un uomo di buon cuore, sincero con se stesso. Andò di filato alla Casa Gialla, disse il proprio nome, che per il decano non significava nulla, e spiegò che soggiornava a Berlevag per motivi di salute e che nel frattempo sarebbe stato felice di dare lezioni di canto alla signorina. Non parlò dell'opera di Parigi, ma spiegò esaurientemente che la signorina Filippa avrebbe cantato meravigliosamente in chiesa per la gloria del Signore. Per un attimo si tradì, perché quando il decano gli chiese se fosse un cattolico romano, gli rispose secondo verità, e il vecchio pastore, che non si era mai trovato di fronte a un cattolico romano, impallidì lievemente. Il decano fu, tuttavia, lieto di parlare in francese, perché ciò gli ricordava la sua gioventù, epoca in cui aveva studiato le opere di un grande scrittore luterano francese, Lefebvre d'Étaples. E siccome nessuno aveva mai saputo resistere a lungo ad Achille Papin, quando questi si era messo in animo di fare qualcosa, il padre finì per acconsentire e fece osservare alla figliola: «Le vie del Signore solcano il mare e i monti nevosi, laddove l'occhio dell'uomo non vede alcun sentiero». E così il grande cantante francese e la giovane novizia norvegese si misero al lavoro insieme. La speranza di Achille si trasformò in certezza e la sua certezza in estasi. Pensò: ho sbagliato a credere che stavo invecchiando, i miei maggiori trionfi hanno ancora da venire. Quando lei ed io canteremo insieme, il mondo crederà di nuovo nei miracoli. Dopo qualche tempo non riuscì più a tenere per sé i suoi sogni e ne parlò a Filippa. Ella si sarebbe innalzata, le disse, sopra qualsiasi diva del passato e del presente, l'imperatore, l'imperatrice, la principessa, le grandi dame e i beaux esprits di Parigi l'avrebbero ascoltata e avrebbero pianto. Anche il popolo l'avrebbe adorata, ella avrebbe dato forza e conforto ai poveri e agli oppressi. Quando ella fosse uscita dalla grande opera al braccio del suo maestro, la folla avrebbe staccato i cavalli dalla sua carrozza e l'avrebbe trascinata a braccia al Café Anglais, dove una splendida cena sarebbe stata pronta per lei. Filippa non comunicò queste prospettive a suo padre e a sua sorella e fu la prima volta in vita sua che tenne loro segreta una cosa. Il maestro diede all'allieva da studiare la parte di Zerlina nell'opera Don Giovanni di Mozart. Lui stesso, come già aveva fatto tante volte, cantò la parte di Don Giovanni. Egli non aveva mai cantato come allora. Nel duetto del secondo atto, chiamato il duetto della seduzione, egli si sentiva rapito dalla musica divina e dalle voci divine. Mentre l'ultima nota, smorzata, svaniva, egli afferrò le mani di Filippa, la trasse verso di sé e la baciò solennemente come uno sposo bacerebbe una sposa davanti all'altare. Poi la lasciò andare. Quel momento era troppo sublime per una parola o un gesto di più. Lo stesso Mozart li guardava tutti e due da lassù. Filippa andò a casa. Disse a suo padre che non voleva più lezioni di canto e lo pregò di scrivere a Monsieur Papin per comunicarglielo. Il decano disse: «E le vie del Signore solcano i fiumi, figliola mia». Quando ricevette la lettera del decano, Achille rimase seduto immobile per un'ora. Pensava: «Ho sbagliato. La mia giornata è al tramonto. Mai più sarò il divino Papin. E questo povero giardino del mondo pieno di sterpi ha perso il suo usignolo». Poco dopo pensò: chissà che cos'è accaduto a quell'impertinente, l'ho forse baciata? Alla fine pensò: ho perso la vita per un bacio. Eppure non ho alcun ricordo del bacio. Don Giovanni ha baciato Zerlina e Achille Papin deve pagare. Ecco il destino dell'artista. In casa del decano, Martina sentiva che il problema era ben più grave di quanto sembrasse e scrutava il volto della sorella. Per un attimo, in cui fu colta da un lieve tremore, anch'ella si figurò che il gentiluomo cattolico avesse tentato di baciare Filippa. Non immaginava che sua sorella poteva essere stata sorpresa e spaventata da qualcosa che era nella sua stessa natura. Achille Papin prese la prima nave che partiva da Berlevag. Le sorelle allusero assai di rado a questo visitatore venuto dal vasto mondo. Mancavano loro le parole con cui parlarne. Capitolo 4. Una lettera da Parigi. 15 anni dopo, in una sera piovosa del giugno 1871, la corda del campanello della Casa Gialla subì tre violenti strattoni. Le padrone di casa aprirono la porta a una donna tarchiata, bruna, mortalmente pallida, con un fagotto sul braccio, che le fissò, fece un passo avanti e crollò sulla soglia in deliquio come morta. Quando le signorine impaurite la fecero rinvenire, ella si tirò su a sedere, le fissò nuovamente con occhi infossati e sempre senza dire una parola, si frugò tra le vesti bagnate e tirò fuori una lettera che porse loro. La lettera era infatti indirizzata a loro, ma era in francese. Le sorelle accostarono il capo l'una all'altra e la lessero. Diceva: «Gentilissime, mi ricordate? Oh, quando penso a voi, mi sento il cuore colmo di mughetti selvatici. È possibile che il ricordo della devozione di un francese induca il vostro cuore a salvare la vita di una francese? L'attrice di questa lettera è Madame Babette Hersin, costretta a fuggire da Parigi come la mia divina imperatrice in persona. La guerra civile ha infuriato nelle nostre strade, mani francesi hanno versato sangue francese. I nobili communards che sostenevano i diritti dell'uomo sono stati schiacciati e annichiliti. Il marito e il figlio di Madame Hersin, entrambi rinomati parrucchieri, sono stati fucilati. Lei stessa è stata arrestata come pétroleuse, parola usata per indicare le donne che danno fuoco alle case con la paraffina, ed è sfuggita per miracolo alle mani lorde di sangue del generale Galifè. Ella ha perduto tutto quanto possedeva e non osa rimanere in Francia. Un suo nipote è cuoco a bordo della Anna Kolbjørnsson, in rotta per Christiania, che credo sia la capitale della Norvegia, e ha ottenuto il permesso d'imbarco per sua zia. È questa la sua ultima triste risorsa. Sapendo che una volta visitai il vostro bellissimo paese, è venuta da me a chiedermi se vi sono in Norvegia persone buone e mi ha supplicato, in caso affermativo, di indirizzare loro una lettera. Le due parole, persone buone, evocano immediatamente ai miei occhi la vostra immagine, sacra al mio cuore. La mando da voi. Non so come andrà da Christiania a Berlevag, perché ho scordato la carta della Norvegia, ma è francese e vedrete che nella sua disperazione c'è ancora in lei spirito d'iniziativa, maestà e vero stoicismo. La invidio nel suo dolore, perché vedrà i vostri visi. Mentre la riceverete con misericordia, inviate alla Francia un pensiero altrettanto misericordioso. Sono 15 anni, signorina Filippa, che mi accoro perché la vostra voce non colmerà mai la grande opera di Parigi. Stasera, ripensando a voi, certamente circondata da una famiglia gaia e affezionata, e a me stesso, canuto, solo, dimenticato da coloro che una volta m'applaudivano e m'adoravano, sento che forse avete scelto la parte migliore della vita. Che cos'è la fama? Che cos'è la gloria? La tomba aspetta tutti noi. Eppure, mia perduta Zerlina, eppure, soprano della neve, mentre scrivo queste righe, sento che la tomba non è la fine. In paradiso udrò di nuovo la vostra voce. Lassù canterete senza timori o scrupoli, come Dio intendeva che cantaste. Lassù sarete la grande artista che Dio intendeva voi foste. Oh, come incanterete gli angeli! Babette sa cucinare. Degnatevi di ricevere, gentilissime, l'umile omaggio dell'amico che una volta fu, Achille Papin. In fondo alla pagina, come un post-scriptum, erano chiaramente riprodotte le due prime battute del duetto tra Don Giovanni e Zerlina. Finora, le due sorelle avevano tenuto soltanto una servetta di 15 anni che le aiutava in casa, sapevano di non potersi assolutamente permettere di assumere una governante anziana ed esperta, ma Babette disse loro che avrebbe servito le buone persone di Monsieur Papin senza compenso alcuno e che non avrebbe servito nessun altro. Se la mandavano via, non le restava che morire. All'epoca di questo racconto, Babette era in casa delle figlie del decano da 12 anni. Capitolo 5. Vita tranquilla. Babette era arrivata smunta e con gli occhi spauriti, come una bestia abbraccata, ma circondata da tante cose nuove e da tanta gentilezza. Aveva acquistato presto l'inconfondibile aspetto di una domestica stimata e fidata. Comparsa come una mendicante, si era rivelata una conquistatrice. Il suo volto sereno e il suo sguardo franco e profondo avevano qualità magnetiche. Sotto i suoi occhi le cose si dirigevano silenziosamente verso il posto che era stato loro assegnato. Le sue padrone avevano dapprima tremato un pochino, proprio come aveva tremato una volta il decano all'idea di ricevere sotto il loro tetto un papista. Ma non volevano importunare una creatura già tanto provata con il loro catechismo, e del resto non erano troppo sicure del loro francese. Convennero in silenzio che l'esempio di una buona vita luterana sarebbe stata il mezzo migliore per convertire la loro domestica. In questo modo la presenza di Babette in casa diventò, per così dire, uno sprone morale per i suoi abitanti. Avevano diffidato dell'asserzione di Monsieur Papin, secondo la quale Babette era capace di cucinare. In Francia, lo sapevano, la gente mangiava i ranocchi. Mostrarono a Babette come si prepara lo stoccafisso e una zuppa di birra e pane. Durante quelle dimostrazioni il viso della francese perse ogni espressione, ma dopo una settimana Babette cucinava lo stoccafisso e la zuppa di birra e pane come una cuoca nata e cresciuta a Berlevag. Le figlie del decano si sentirono poi preoccupate e sgomente al pensiero del lusso e della prodigalità dei francesi. L'indomani dell'entrata di Babette al loro servizio, esse la convocarono per spiegarle che erano povere e che per loro sedersi a una mensa di lusso era peccato. Il cibo per loro doveva essere più semplice possibile, ma avevano invece importanza le pentole di zuppa e i cestini per i poveri. Babette annuì. Da ragazza, informò le sue signorine, era stata cuoca presso un vecchio prete che era santo. Allora le sorelle stabilirono di superare in ascetismo il prete francese e non tardarono ad accorgersi che dal giorno in cui Babette aveva assunto il governo della loro casa, le loro spese si erano miracolosamente ridotte e le pentole e i cestini avevano acquistato un nuovo e misterioso potere per stimolare e rafforzare i loro poveri e ammalati. Anche il mondo al di fuori della Casa Gialla finì per rendersi conto della bravura di Babette. La profuga non imparò mai la lingua della sua nuova patria, ma nel suo titubante norvegese riuscì a far calare i prezzi ai più incalliti commercianti di Berlevag. Era temuta e rispettata al porto e al mercato. I vecchi fratelli e le vecchie sorelle della congrega, che da prima avevano guardato in cagnesco la straniera capitata in mezzo a loro, sentivano che un felice mutamento era avvenuto nella vita delle loro sorelline e se ne rallegrarono. E ne beneficiarono. Scoprirono che preoccupazioni e ansie erano state magicamente scacciate dalla loro esistenza e che ora avevano danaro da elargire, tempo per le confidenze e le lagnanze dei loro vecchi amici e pace per meditare su questioni celesti. Dopo qualche tempo, non pochi membri della confraternita inclusero il nome di Babette nelle loro preghiere e ringraziarono Dio per la straniera silenziosa, la bruna Marta in casa delle loro due bionde Marie. La pietra, che i costruttori avevano quasi rifiutato, era diventata la pietra angolare della casa. Le signorine della Casa Gialla erano le sole a sapere che la loro pietra angolare aveva una particolare, misteriosa e allarmante caratteristica, quasi ella fosse collegata alla pietra nera della Mecca, alla stessa Kaaba. Babette non parlava quasi mai della sua vita passata. Quando, nei primi giorni, furono affettuosamente condolenti per i suoi lutti, le sorelle avevano dovuto affrontare la maestà e lo stoicismo di cui aveva parlato Monsieur Papin nella sua lettera. «Che fare, signore?» aveva risposto, stringendosi nelle spalle. «È destino». Ma un giorno ella le informò improvvisamente di aver posseduto per molti anni il biglietto di una lotteria francese e che un amico fedele a Parigi glielo rinnovava ogni anno. Una volta o l'altra avrebbe potuto vincere il Grand Prix di 10.000 franchi. Allora ebbero la sensazione che la vecchia borsa da viaggio della loro cuoca fosse fatta con il tessuto di un tappeto magico e che a un certo punto ella avrebbe potuto salirci sopra e farsi portar via di ritorno a Parigi. Accadeva poi, parlando con Babette, che Martina o Filippa non ricevessero risposta. Allora si domandavano se ella avesse almeno udito ciò che le avevano detto. La trovavano in cucina, coi gomiti sulla tavola e le mani alle tempie, immersa nello studio di un librone nero che esse sospettavano segretamente essere un libro di preghiere papista. Oppure sedeva immobile sullo sgabello a tre piedi della cucina, con le mani robuste, abbandonate in grembo e gli occhi scuri spalancati, enigmatica e fatale come la pizia sul tripode. In quei momenti si rendevano conto che Babette era profonda e che negli abissi del suo essere v'erano passioni, ricordi e desideri di cui esse non sapevano nulla. Un piccolo fremito gelido le percorreva e in cuor loro pensavano forse, dopo tutto, era stata davvero una pétroleuse. Capitolo 6. La fortuna di Babette. Il 15 dicembre era il centesimo compleanno del decano. Le sue figliole avevano lungamente atteso quel giorno e avevano sempre desiderato festeggiarlo come se il loro caro padre fosse ancora tra i suoi discepoli. Era quindi stato per loro triste e incomprensibile che in quell'ultimo anno discordie e dissapori avessero spesso serpeggiato nel gregge. Si erano sforzate di mettere pace, ma si erano rese conto di non esserci riuscite. Era come se il vigore bello e amabile della personalità del loro genitore fosse svaporato, come svapora l'analgesico di Hoffman se è lasciato sulla mensola in una bottiglia senza tappo. E la scomparsa di lui aveva lasciato la porta socchiusa a cose fino allora sconosciute alle due sorelle, tanto più giovani dei suoi figli spirituali. Da un passato di 50 anni prima, da quando, cioè, le pecore senza pastore correvano a smarrirsi nelle montagne, funesti ospiti non invitati si insinuavano furtivi alle calcagna dei fedeli e sembravano oscurare le stanzette e lasciarvi entrare il freddo. I peccati dei vecchi fratelli e delle vecchie sorelle giungevano, con il loro tardo e penetrante pentimento, come un mal di denti, e i peccati degli altri contro di loro si ritorcevano con amaro rancore, come un veleno nel sangue. Nella congregazione c'erano due vecchie che prima della conversione si erano calunniate a vicenda e quindi avevano reciprocamente mandato a monte un matrimonio, un'eredità. Oggi non riuscivano a ricordare avvenimenti di un giorno o di una settimana avanti, ma ricordavano quel torto di 40 anni prima e seguitavano a rivangare vecchi rancori, torve e arcigne. C'era un vecchio fratello il quale si era improvvisamente rammentato che un altro fratello, 45 anni prima, lo aveva truffato in un affare e avrebbe voluto allontanare quel ricordo dalla sua mente, ma esso lo pungeva come una fistola profonda e imputridita. C'era un capitano mercantile, onesto e canuto, e una vedova pia e raggrinzita che in gioventù, mentre lei era moglie di un altro, si erano innamorati l'uno dell'altra. Da ultimo avevano cominciato entrambi a dolersi, passando il fardello della colpa dalle proprie spalle alle spalle dell'altro e viceversa, e a preoccuparsi delle probabili terribili conseguenze che per tutta l'eternità sarebbero ricadute su ciascuno di loro, per colpa di chi aveva preteso di averlo caro. Impallidivano incontrandosi nella casa gialla ed evitavano di guardarsi reciprocamente. Mentre si avvicinava il compleanno, Martina e Filippa sentirono che la loro responsabilità diventava sempre più pesante. Il loro fedele genitore avrebbe forse di lassù guardato le sue figliole e le avrebbe chiamate per nome come custodi senza giustizia? Tra loro discutevano dell'argomento e ripetevano il detto del loro padre, secondo il quale le vie del Signore solcavano anche il mare salato e le montagne ammantate di neve, laddove l'occhio dell'uomo non vede neppure un sentiero. Un giorno di quell'estate la posta portò una lettera dalla Francia a Madame Babette Hersant. La cosa era già sorprendente per se stessa, perché durante quei 12 anni Babette non aveva mai ricevuto lettere. Che cosa si domandavano le sue signorine poteva mai contenere? Gliela portarono in cucina per osservare Babette mentre l'apriva e la leggeva. Ella l'aprì, la lesse, alzò gli occhi dalla lettera al viso delle sue signorine e disse loro che il numero del suo biglietto della lotteria francese era uscito. Aveva vinto 10.000 franchi. La notizia impressionò tanto le due sorelle che per un intero minuto non riuscirono a pronunciare una parola. Erano abituate a ricevere la propria modesta pensione a piccole rate, cosicché era loro difficile immaginare la somma di 10.000 franchi in un mucchio solo. Allora strinsero la mano di Babette e le loro mani tremavano un poco. Mai prima di allora avevano stretto la mano di una persona che un attimo prima era entrata in possesso di 10.000 franchi. Dopo un poco si resero conto che l'avvenimento riguardava loro quanto Babette. La nazione francese, sentivano, si ergeva lentamente all'orizzonte della domestica e di conseguenza la loro personale esistenza stava crollando sotto i loro piedi. I 10.000 franchi che avevano reso ricca lei, quanto povera rendevano ora la casa che ella aveva servito. Ansie e preoccupazioni da tempo dimenticate cominciarono una per una ad affiorare dai quattro angoli della cucina. Le congratulazioni si spensero sulle loro labbra e le due pie donne si vergognarono del loro stesso silenzio. Durante i giorni seguenti, esse annunciarono la notizia agli amici con visi giocondi, ma provavano conforto, vedendo che i visi dei loro amici si rattristavano ascoltandola. Nessuno, si sentiva nella congregazione, avrebbe potuto biasimare Babette. Gli uccelli tornano al loro nido e gli esseri umani al loro paese di origine, ma la buona e fedele domestica si rendeva conto che partendo da Berlevag avrebbe lasciato nella desolazione tanto vecchia e povera gente. Le sorelline non avrebbero più avuto il tempo per i malati e gli addolorati. Davvero, davvero, le lotterie erano faccende empie. A tempo debito, il denaro arrivò attraverso gli uffici di Christiania e Berlevag. Le due signorine aiutarono Babette a contarlo e le dettero una scatola in cui riporlo. Maneggiarono quei sinistri fogli di carta fino ad averci dimestichezza. Non osavano interrogare Babette sulla data della sua partenza. Potevano sperare che ella sarebbe rimasta con loro oltre il 15 dicembre. Le signorine non erano mai state ben sicure di quanta parte della loro conversazione privata fosse seguita o capita dalla cuoca. Rimasero quindi sorprese quando, una sera di settembre, Babette entrò in salotto, più umile e sottomessa di quanto l'avessero mai veduta, a chiedere un favore. Le pregava, disse, di lasciarle cucinare un pranzo celebrativo per il compleanno del decano. Le signorine non avevano mai pensato di dare alcun pranzo. Una semplicissima cena con una tazza di caffè era il pasto più sfarzoso al quale avessero mai invitato un ospite, ma gli occhi scuri di Babette erano ardenti e supplichevoli quanto quelli di un cane, e convennero di lasciarle fare a modo suo. Allora il viso della cuoca si illuminò tutto. Un vrai dîner français. Ma aveva altro da dire. Voleva, disse, cucinare un pranzo francese, un vero pranzo francese, un vrai dîner français per questa volta. Martina e Filippa si guardarono. L'idea non piacque loro, non riuscivano a prevederne le conseguenze, ma la stranezza stessa della richiesta le disarmò. Non avevano argomenti per opporsi alla proposta di cucinare un vero pranzo francese. Babette trasse un lungo sospiro di felicità. Ma non si mosse. Aveva un'altra preghiera da fare. Supplicava le sue signorine di permetterle di pagare quel pranzo francese col proprio denaro. No, Babette, esclamarono le signorine. Come poteva immaginare una cosa simile? Se pas possible, Babette. Credeva forse che esse le avrebbero permesso di spendere quel suo prezioso denaro in pietanze e vini o per loro? No. Babette, è fuori questione proprio? No. Babette fece un passo avanti. Vi era qualcosa di formidabile in quel gesto, come un'onda che si gonfia. Era venuta avanti così nel 1871 per piantare una bandiera rossa su una barricata. Parlava nel suo strano norvegese con classica eloquenza francese. La sua voce era come se cantasse. Signore, in 12 anni Babette vi aveva mai chiesto un favore? No. E perché no? Signore, voi che dite le preghiere tutti i giorni, potete immaginare che cosa significa per un cuore umano non avere preghiere da formulare? Per che cosa avrebbe dovuto pregare Babette? Per nulla. Stasera ha una preghiera da esprimere dal profondo del cuore. Non sentite stasera, signore mie, quanto vi giova esaudirla con la stessa gioia con cui il buon Dio ha esaudito le vostre? Lì per lì le signorine non risposero. Babette aveva ragione, era la prima richiesta che faceva in 12 anni e forse sarebbe stata l'ultima. Ci pensarono sopra. Dopotutto, si dissero, la loro cuoca era adesso più ricca di loro e un pranzo non significava granché per una persona che possedeva 10.000 franchi. Il loro consenso, infine, trasformò completamente Babette. Capirono che da giovane era stata stupenda e si domandarono se in quel momento loro stesse non erano, proprio per la prima volta, diventate per lei le buone persone della lettera di Achille Papin. Capitolo 7. La tartaruga. In novembre Babette partì per un viaggio. Disse alle sue padrone che aveva da fare dei preparativi e che le occorreva una licenza di una settimana o 10 giorni. Suo nipote, quello che una volta l'aveva portata a Cristiania, faceva ancora rotta per quella città. Ella doveva vederlo e parlare di tutto con lui. Babette era una pessima navigatrice, aveva parlato del suo unico viaggio di mare, quello dalla Francia alla Norvegia, come della più spaventosa esperienza della sua vita. Ora era stranamente sicura di sé. Le signorine sentivano che il suo cuore era già in Francia. 10 giorni dopo tornò a Berlevag. Aveva sistemato le cose come desiderava? Chiesero le signorine. Sì, rispose. Aveva veduto suo nipote e gli aveva dato un elenco delle provviste che gli doveva portare dalla Francia. La frase era oscura per Martina e Filippa, ma esse non intendevano parlare del suo viaggio e quindi non le fecero altre domande. Durante le settimane successive Babette si dimostrò un po' inquieta, ma un giorno di dicembre annunciò trionfante alle sue padrone che le provviste erano giunte a Cristiania, erano state trasbordate su un'altra nave e proprio quel giorno erano arrivate a Berlevag. Soggiunse di aver incaricato un vecchio di trasportarle con un carretto a mano dal porto alla casa. «Ma quali provviste, Babette?» chiesero le signorine. «Oh, madame!» replicò Babette. «Sono gli ingredienti per il pranzo del compleanno. Grazie a Dio, erano arrivati tutti in buono stato da Parigi». Nel frattempo Babette, come il demonietto imbottigliato della favola, s'era gonfiata e aveva assunto tali dimensioni che le sue padrone si sentivano piccine davanti a lei. Si vedevano sopraffatte da quel pranzo francese, avvenimento di natura e portata incalcolabili. Ma in vita loro non avevano mai mancato a una promessa e si abbandonarono nelle mani della cuoca. Tuttavia, Martina rimase allibita quando vide rotolare fino in cucina una carriola carica di bottiglie. Toccò le bottiglie, ne prese in mano una. «Babette, che cosa c'è in questa bottiglia?» chiese sottovoce. «Non è vino». «Vino, madame», rispose Babette. «No, madame, è un Clos Vougeot 1846». Dopo un attimo soggiunse: «Viene da Philippe, in rue Montorgueil». Martina non aveva mai sospettato che i vini potessero avere un nome e fu messa a tacere. Più tardi, nella serata, sentì suonare alla porta. Andò ad aprire e si trovò davanti la stessa carriola, ma questa volta trainata da un marinaretto dai capelli rossi, come se ormai il vecchio si fosse consumato. Il giovane la guardò sogghignando mentre scaricava dalla carriola un oggetto grande e indefinibile. Alla luce della lampada sembrava una pietra nera o verdastra, ma poi, scaricato sul pavimento della cucina, tirò fuori all'improvviso una testa da serpente e la mosse lievemente in qua e in là. Martina aveva veduto riproduzioni di tartarughe e da bambina aveva perfino posseduto una tartarughina, ma questa era una cosa di dimensioni mostruose e orrenda da vedere. Uscì dalla cucina rinculando, senza dire una parola. Non osò dire alla sorella ciò che aveva veduto. Trascorse una nottata quasi insonne, pensava a suo padre e le pareva che proprio nel giorno del suo compleanno lei e sua sorella avrebbero ospitato in casa sua un sabba di streghe. Quando alla fine si addormentò, fece un sogno orrendo in cui vedeva Babette che avvelenava i vecchi fratelli e le vecchie sorelle, Filippa e lei stessa. La mattina di buon'ora si alzò, si mise il mantello grigio e uscì nella strada buia. Andò di casa in casa ad aprire il suo cuore coi fratelli e le sorelle e a confessare la sua colpa. Lei e Filippa, diceva, non avevano creduto di far male, avevano esaudito una preghiera della loro serva e non ne avevano preveduto le conseguenze. Ora non sapeva che cosa avrebbero avuto da mangiare o da bere i suoi ospiti nel compleanno del suo genitore. Non parlò proprio della tartaruga, ma essa era presente nella sua espressione e nella sua voce. Quei vecchi, come già si è detto, conoscevano tutti Martina e Filippa fin da quando erano bambine. Le avevano vedute piangere amaramente per una bambola rotta. Le lacrime di Martina fecero salir loro le lacrime agli occhi. Nel pomeriggio si riunirono per discutere il problema. Prima di lasciarsi, si promisero vicendevolmente che per amore delle loro sorelline quel gran giorno avrebbero taciuto a proposito di cibi e bevande. Niente di ciò che poteva essere messo loro davanti, fossero pure ranocchi o serpenti, avrebbe strappato una parola dalle loro labbra. Eppure, disse un fratello dalla barba bianca, la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Non v'è uomo che possa dominare la lingua, calamità sregolata, piena di veleno mortale. Nel giorno del nostro maestro noi ci monderemo la lingua da ogni sapore e la purificheremo da ogni godimento o disgusto dei sensi, serbandola e preservandola per le più elevate funzioni della lode e del ringraziamento. Così poche erano le cose mai accadute nella serena esistenza della confraternita di Berlevag che in quel momento essi si sentirono profondamente turbati ed esaltati. Si strinsero la mano su quel giuramento e per loro fu come se l'avessero fatto di fronte al maestro.